Huh. Yeah. This is Falk. MC. In the house. Come on. Né rosso né nero, io mi rifiuto né rosso né nero, sono me stesso, non scelgo il colore né l'ideologia, temo che la vostra sia una patologia. Né rosso né nero, io mi rifiuto né rosso né nero, sono me stesso, non sono conformista, uso la fantasia, le vostre favole sono solo una bugia. Check. Questa società schierata a destra e a sinistra mi distingo per la mia posizione apolitica, Camera dei Deputati e Senatori a vita, vita politica, pochi falchi e molta critica. Politeismo nazionale, il politico è un animale, un cacciatore di voti, di prestigio nazionale. Molto spesso usa armi nascoste nella manica, assi di picche e imbroglia per la carica. Tra fascismo e comunismo, se ci pensi bene, si tratta solo di estremismo. Posizioni inutili, quelle di cui parlo, per la nostra società rappresentano solo un tarlo. Ho tanta rabbia dentro e tanta rabbia, bro. Se la situazione non cambia questo posto, rosso come sangue di bimbi innocenti, nero come l'anima dei potenti coscienti. Come on. Né rosso né nero, io mi rifiuto né rosso né nero, sono me stesso, non scelgo il colore né l'ideologia, temo che la vostra sia una patologia. Né rosso né nero, io mi rifiuto né rosso né nero, sono me stesso, non sono conformista, uso la fantasia, le vostre favole sono solo una bugia. Amano farsi chiamare onorevoli, onore zero, solo parole inutili, onesti, neanche a parlarne, politici, gente facilmente corruttibile, cambiano bandiera a seconda del vento, cambia la direzione ma il succo resta sempre quello, soldi, poltrona, potere e rispetto, io rispetto solo chi merita il rispetto sul detto. Soldi, macchinoni, donne, cocaina, tanto ci pensa lo Stato a pagarti la benzina. Promettono, promettono e poi non mantengono, promesse da marinaio, promesse senza impegno. In fondo per loro non siamo solo marionette, tanto cosa importa se la gente poi ci rimette. Paghiamo le tasse per mantenerli la poltrona, questa falsa democrazia gli nasconde la corona. Né rosso né nero, io mi rifiuto né rosso né nero, sono me stesso, non scelgo il colore né l'ideologia, temo che la vostra sia una patologia. Né rosso né nero, io mi rifiuto né rosso né nero, sono me stesso, non sono conformista, uso la fantasia, le vostre favole sono solo una bugia. Basta con tutte queste promesse, basta, ne abbiamo piene le tasche, dateci quello che ci spetta, una fetta della vostra torta indigesta. Basta con questi stupidi allarmismi, lo fate solamente per ottenere voti facili, siete abili a stravolgere le cose, vogliamo i fatti e non solo parole inutili.